tondo paese di pace, paese di sole, dove trascorrere tutta la vita vorrei. Dolci sentieri di sogno fra tenere aiuole, angolo di paradiso chissà dove sei. Vado a Zondo dove il cielo è sempre blu, o dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a Zondo col mio cuore sognator, e girondolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a Zondo, me ne vo di qua e di là, vado libero come un passero e sento l'anima ebra di felicità. Sopra le carte geografiche sul mappamondo e sugli atlanti per giorni e per notti cercar, va ne ricerca il più dolce paese del mondo. Zondo paese felice chissà dove mai. Vado a Zondo dove il cielo è sempre blu, o dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a Zondo col mio cuore sognator, e girondolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a Zondo, me ne vo di qua e di là, vado libero come un passero e sento l'anima ebra di felicità.